Voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, Idee anticrisi. Ci sono startup che sono il lavoro per i giovani. Imparano a nuotare questi giovani nel mare della disoccupazione portando avanti un'idea. E ci sono piccole imprese che diventano startup per sempre impiegando giovani che danno linfa all'idea anticrisi. Edison Web, da azienda personale, è diventata un team, un piccolo miracolo siciliano che attira giovani laureati in fisica, informatica e ingegneria. Grazie a Riccardo D'Angelo, laureato in fisica ma con una forte propensione all'informatica, che la fonda nel 1995 con il sogno di far conoscere al mondo delle piccole e medie imprese alcune applicazioni software allora considerate fantascientifiche. Ma non si è arreso mai, finché dopo tanti viaggi e contatti a vuoto, alla fine degli anni 90, Telecom risponde a una sua proposta. Lui, sconosciuto e proveniente da un paesino sperduto di 5.000 anime, è in grado di fornire una tecnologia all'avanguardia e arriva a ideare un software in grado di far diventare gli schermi pubblicitari intelligenti e capaci di riconoscere in automatico il profilo, sesso, età e provenienza geografica di chi li guarda, per proporre solo messaggi mirati. Di qui una crescita esponenziale insieme ai suoi giovani, come le startup di oggi, come racconta Riccardo D'Angelo. Sentiamo. Edison Web nasce esattamente nel 1995, era la giornata di primavera. Mi trovo a Mirabella in Baccheri, che è il nostro paese di origine, è un piccolo paese nell'entroterra siciliano. Dopo varie esperienze, dopo anche aver maturato la passione per l'informatica, per la programmazione, nata ben prima, all'epoca dei primissimi home computer. Si tratta dell'epoca del Commodore 64? Esattamente, si parla dell'epoca del Commodore 64. Mi ricordo, tra l'altro, con quel computer sviluppai un software per pubblicizzare l'attività del negozio di mia mamma, ponendo il display in direzione del pubblico, quindi dei passanti, e sviluppando delle animazioni che, diciamo, nelle mie intenzioni dovevano attrarre l'attenzione e quindi in qualche maniera portare alle persone ad entrare nel negozio ed acquistare. Ecco, c'è proprio un collegamento diretto, allora, come una macchina del tempo, da quell'idea di allora ad adesso. Qual è l'idea anticrisi di adesso? Assolutamente, infatti non avrei immaginato, a dire il vero, allora, che qualche anno dopo questo sistema si sarebbe chiamato digital signage, no? Che soprattutto con l'avvento dei grandi schermi è presente ormai nei luoghi di affluenza pubblici, centri commerciali, li vediamo ovunque. Ecco, noi abbiamo evoluto questo concetto partendo proprio da quello di tanti anni fa, aggiungendo intelligenza a questi schermi, cioè dando a loro, diciamo così, la capacità, attraverso una piccola camera, di percepire se la persona che sta guardando lo schermo, per esempio, è un ragazzo di 20 anni o una signora di 50 anni, quindi selezionare i messaggi in base all'audience. Succede attraverso un'analisi del volto che viene inquadrato da questa telecamera e avviene in maniera assolutamente anonima, quindi nel pieno rispetto della privacy, attraverso un confronto, in qualche maniera un'elaborazione matematica che consente di valutare statisticamente se quella persona, appunto, è di sesso maschile e femminile e la fascia di età. Voi siete arrivati qui aiutati da chi, da cosa e chi è che vi ha fatto fare un balzo nell'attualità? Sì, è stato un percorso, devo dire, molto lungo. Abbiamo iniziato nel 95, quando ancora internet era agli albori, già immaginando soluzioni, applicazioni software per la comunicazione e la trasparenza amministrativa, piuttosto che per l'e-commerce. Il problema è che in quel periodo vendere quegli oggetti era molto difficile, tant'è che molto spesso ci trovavamo di fronte a delle vere e proprie incomprensioni da parte dei nostri potenziali clienti. Però questo non ci ha impedito di crederci, anche perché comunque l'innovazione stava avanzando, il futuro stava sempre di più e l'utilizzo di internet dei computer era in continuo, in fase molto importante di crescita. Quindi abbiamo comunque continuato a crederci, lavorando all'inizio anche di notte, perché pensavamo che comunque avremmo avuto la nostra occasione. L'occasione in effetti arrivò grazie a una importante azienda italiana nell'ambito delle telecomunicazioni, telecomunicazione, parlo di Telecom Italia, che intorno agli anni 2000, l'anno 2000, aveva investito tantissimo in data center, queste grandi sale dove sono presenti server, computer per l'erogazione di applicazioni, però non aveva le applicazioni, quindi fece una bando, in qualche maniera una ricerca su tutto il territorio nazionale per trovare delle aziende che avessero sviluppato delle soluzioni software che potessero essere utilizzate tramite internet. Poi da quella relazione che ci ha portato a essere una delle prime aziende in Italia che ha stipulato con Telecom Italia un accordo quadro, quindi diciamo i nostri prodotti venivano venduti da Telecom su tutto il territorio nazionale, per cui è chiaro che abbiamo avuto un grande supporto dal punto di vista certo commerciale. Un win-win, ciascuno aveva il suo vantaggio. Assolutamente sì. Ecco, dopo? Quello degli anni successivi ci ha consentito di investire continuamente su noi stessi, sul prodotto, ideare nuove soluzioni e poi fare il salto, ovvero quello di camminare con le nostre gambe. Gli ultimi 3 anni sono stati anche degli anni dove abbiamo investito tantissimo, molto anche diciamo faticosi da questo punto di vista, ma dove siamo riusciti anche a ottenere per esempio dei fondi comunitari e a sfruttare al meglio quelli che sono i piani operativi regionali. Quindi parlando anche di numeri e di indicatori, negli ultimi 3 anni abbiamo investito circa 1,5 milioni di euro. I fondi comunitari, istruzioni per l'uso, come si accede? Ah, guarda, è stata una cosa stupenda per certi versi. Non abbiamo seguito e non ci siamo rivolti a nessuna azienda di intermediazione, di consulenza, ovviamente ci mancherebbe altro, nessun politico o funzionario di riferimento. Ci siamo messi lì a scrivere, a mettere su carta le nostre idee, la nostra progettualità e praticamente ci hanno approvato tutti i progetti. Da che cosa guadagnate? Dai clienti e a chi vi rivolgete? Sì, allora il nostro modello di business è molto semplice. Noi offriamo più che un prodotto, un modello di business, un servizio, cioè è un approccio al marketing digitale di prossimità che può generare valore a sua volta per i nostri clienti. Quindi quello che chiediamo in cambio è una parte sull'uso della nostra piattaforma, che non richiede investimenti, noi la attiviamo direttamente sul cloud, per cui oggi mi servono 10 display pubblicitari sulla mia catena di negozi che ho appena aperto, installo il componente fisico, l'hardware, il display, dopodiché mi collego al nostro portale e lì attivo le licenze. Solo dal momento in cui io le attivo, le utilizzo, le pago, è la modalità come viene descritta software as a service, quindi software erogato come un servizio in cambio di un canone, diciamo, mensile. Dai giovani per i giovani, Spikey è una neonata impresa che non ha neanche un anno e vuole diventare il social network delle aziende per vendere di più. Tutto rigorosamente gratis. Sono 3 ragazzi modenesi, Matteo Mannelli è il fondatore insieme a Matteo Venturelli di questa startup digitale. Poi si sono aggregati altri ragazzi dell'Università di Modena e sono arrivati a creare il Facebook Emiliano delle aziende. Sentiamo Matteo Mannelli. Beh, l'idea nasce da, diciamo che un paio di anni fa, sia io che un mio collega abbiamo utilizzato dei gruppi di acquisto, abbiamo avuto dei grossi problemi e dopodiché, visto che abbiamo entrambi studiato marketing così, proviamo a analizzare un po' il sistema dei gruppi di acquisto. Abbiamo fatto un paio di mesi di ricerca di mercato e a nostro avviso diciamo che questo mondo non ci sembrava particolarmente democratico per nessuno dei player in gioco, cioè l'azienda spesso è costretta a fare sconti molto elevati e poi a concedere una parte importante tante in provvigione. In soldoni non ci guadagnava nessuno e non aveva vantaggi nessuno, ovviamente. Esatto. L'utente poi non può chiedere informazioni, quindi spesso si parla di bufale o cose di questo genere, e anche per il gruppo di acquisto comunque è oneroso, perché comunque ha bisogno di tantissimi commerciali, ha bisogno di un centro servizi importante. Quindi alla fine della nostra ricerca abbiamo detto sicuramente c'è un modo migliore per fare questa cosa e quindi abbiamo inventato Spikey. La cosa migliore era appunto semplificare, e Spikey è molto semplice: toglie l'intermediazione, cioè mentre nei gruppi di acquisto è il gruppo d'acquisto stesso che intermedia il rapporto, noi abbiamo creato un rapporto diretto utenti esercenti. L'esempio pratico: io compro un coupon, vado a mangiare, mi trovo a mangiare e mi danno meno degli altri, e l'esercente mi spiega che non posso essere trattato tanto bene perché non ci guadagnano da questo, e tu, voi come avete rimediato a tutto questo scontento? Ecco, nel nostro caso diciamo che è praticamente impossibile. È impossibile perché prima di acquistare, essendo un social network, l'utente può vedere i feedback sia degli utenti che hanno già utilizzato il coupon, sia può chiedere informazioni direttamente all'esercente, quindi va a colpo sicuro. Ed è impossibile perché si lascia il feedback dopo l'utilizzo. Quindi se l'esercente al terzo coupon che vende fornisce un servizio di serie B, non viene più utilizzato. Quindi questo nei nostri casi non succede, tant'è vero che su 100 i feedback che abbiamo, 99 sono positivi, ecco, quindi abbiamo eliminato alla fonte il problema. Quindi per il cliente si mangia bene per forza, se no l'esercente è fuori. E per l'esercente? Per l'esercente è comodissimo perché quello che guadagna se lo tiene. Noi non guadagniamo sull'esercente, non chiediamo la provvigione all'esercente. Il nostro è un social network dove l'esercente si iscrive, crea il profilo, crea le offerte e semplicemente queste offerte le rilascia al consumatore senza richiedere, noi non richiediamo nessun tipo di provvigione. In pratica gli fate però una pagina vetrina, una pagina internet che lui può utilizzare per offrire se stesso, non è che offrite voi qualcosa che avete concordato con lui? Assolutamente, infatti ci piace chiamarci il Facebook delle aziende, cioè è un Facebook orientato alle aziende dove le aziende creano un profilo, creano le loro offerte e non solo, a breve potranno creare il proprio sito internet, il proprio e-commerce direttamente usando la nostra piattaforma. Noi diamo una piattaforma che permette alle aziende di vendere agli utenti, di trovare prodotti, condividerli e socializzare tramite gli acquisti che fanno. Quanti anni avete e chi è che vi ha aiutato, chi è che vi ha fatto fare il salto? Allora, noi siamo tutti ragazzi dai 26 ai 35 anni massimo e siamo partiti con i nostri soldi, diciamo che abbiamo rotto il porcellino. Dopo 6 mesi, per fortuna i risultati sono stati molto positivi e un finanziatore, il cosiddetto Angel, ci ha contattato e abbiamo ottenuto un primo round di finanziamento che ci permetterà di andare avanti fino a fine anno, diciamo autofinanziandoci. Se tutti sono contenti ed è tutto promozioni, gratuito eccetera, come guadagnate? Qual è il modello? Il modello di business è quello tipico dei social network. Noi vogliamo lavorare su tutti i discorsi pubblicitari, quindi spazi pubblicitari, pay per click, conti che noi, ogni utente come in Facebook da noi ha una bacheca, quindi contiamo di arrivare presto al milione di bacheche e quindi lavorare su quel modello di business lì, senza gravare sul esercente o sui consumatori. E ora create il vostro lavoro con una startup giovane. Se volete ascoltare le precedenti storie o scriverci le vostre, Voci di Piccola Impresa su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog e il download sono su www.radio24.it. Grazie alla collaborazione di Anita Panizza e un saluto da Anna Marino. Avete ascoltato Voci di Piccola Impresa, idee anticrisi. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Un saluto e a sabato prossimo.